Una buonasera o un buongiorno, buon pomeriggio, buona mattinata, insomma fate un po' voi rispetto a quando state ascoltando 451 frammenti sonori in compagnia mia di Max Macchia, che ovviamente vi augura un buon ciao, beh, a questo punto, no? Visto che a livello temporale si fa sempre un po' di confusione, anche un po' voluta, volendo, visto che magari qualcuno, qualche folle ci potrebbe anche ascoltare da qualche altra latitudine, beh, lo salutiamo magari se lo sta facendo. E questa sera 451 frammenti sonori, quasi come dire a dovere, ma un dovere che è quasi un piacere, se non fosse che appunto per ci troviamo qua per fatto luttuoso, ovvero la morte di Mika Vaino. Questa sera ho un mistetto Mika Vaino dedicato appunto a Mika Vaino, figura scomparsa in maniera tragica qualche settimana fa. Ovviamente non ci eravamo scordati da queste parti, siamo un po', come dire, un po' depressi dalle tante morti di questi ultimi mesi, non, considerando insomma l'anno scorso veramente un anno incredibile in questo senso, quindi insomma un po' scottati dalla faccenda appunto del 2016, però ecco, di fatto non si può non passare dalle maglie, dalle fitte maglie elettroniche, analogiche o digital immaginative, potremmo dire, perché più che digitali erano quasi sempre analogiche, quella di Mika Vaino, dalla tecno scheletrica urticante a quei glitch pungenti e quelle ambientazioni tra futurismo sonoro, con tanto anche di momenti che sentiremo questa sera appunto dedicati al grande compositore finlandese, con anche momenti atmosferici, astratti, però sempre con sguardo terrificante quasi di Mika Vaino, che portava le sue musiche a un grado di intensità fortissimo. Ovviamente per citare il progetto più importante, uno dei progetti più importanti degli ultimi anni, degli ultimi decenni, anzi delle elettroniche tutte, ovvero Pansonic, o forse per meglio dire Panasonic, come si chiamavano all'inizio, poi insomma per le solite robe legate a copyright, veramente tristezze merceologiche, fu imposto di togliere quella storia che poi abbiamo anche tante volte trattato con 451 frammenti sonori, storie che attraversano non soltanto quindi un attacco, potremmo dire diretto, forse riprendendo anche lo shock tattico e strategico, perché no, anche spesso dell'industrial, che dentro Panasonic, ma anche dentro lavori di Mika Vaino, sono sempre state piuttosto utilizzate, se non addirittura proprio tra le corde e tra un disegno comunque che nella sperimentazione elettronica prevedeva vari veramente momenti, una forza in questo senso di Mika Vaino di rendere e di piegare, potremmo dire, molte attitudini elettroniche, ma anche elettroacustiche per molti versi, e con poi questo aspetto sempre rivendicato di un analogico forte, di concretisti, dei vari rumoristi che si sono succeduti nel corso dei decenni, dal dopoguerra in poi, che dentro le musiche sia di Panasonic che di Mika Vaino vivono, rivivono, addirittura di fatto anche proprio fisicamente, con collaborazioni molto molto grosse. Potremmo ricordare ad esempio quella con Charmaine Palestine, ma quella anche con Christian Zanesi, quindi anche tutto l'aspetto legato alla cusmatica, che curerà anche in maniera grigia, appunto Mica Vaino, parallela a tutto il discorso di Pansonic, che sicuramente porteranno un punto nodale, fondamentale, buona parte delle elettroniche, non solo estreme, perché poi di fatto alcune cose di Pansonic flirteranno anche con un linguaggio pop molto sui generis, intendiamoci, magari insomma diventasse di fatto pop a tutti gli effetti. Dovremmo dire che insomma vivremo in un altro mondo, di fatto ancora non è così, ma comunque appunto informano quelle che poi saranno anche le varie techno che porteranno anche, perché no, soldi in cassa, non direttamente di Pansonic, ma sicuramente da parte di loro affini, potremmo dire figliocci anche per molti aspetti, quindi anche il recupero in chiave synth pop fatto dai Pansonic negli anni 90 sarà poi fondamentale, anche da Mica Vaino chiaramente, un po' parallelo tutto il discorso, e porteranno molte formazioni e molti progetti anche appunto a sfondare in chiave pop, mai come con quel piglio eccezionale, sempre Riot potremmo dire del grande Mica Vaino, ma comunque appunto riuscendo anche a captare quelle che erano musiche che di fatto soggiacevano poi molto negli anni 90, quasi in una sorta di non dimenticatoio, ma di deposito storico, potremmo dire, che Mica riuscì a far uscire, appunto, a fare riemergere nella loro anche potenza, e reinterpretandole in una maniera assolutamente personale. Accennavamo anche al discorso appunto della acusmatica che attraversa Mica Vaino, quindi anche progettualità che hanno attraversato etichette storiche come la Touch Record. Andiamo a trovare proprio degli ultimi lavori di Mica Vaino, magari con la promessa anche che appena avremo tra le mani l'ultimo lavoro, che è uscito proprio da pochi giorni, RIT, non ancora appunto in mio possesso, quindi non ve lo posso insomma mettere questa sera, inserire dentro la scaletta, ma sicuramente lo farò prossimamente, andando a prendere Kilo, che non è disco della Touch, anche se poi dopo arriveremo anche, attraverseremo la Touch, ma sicuramente è disco che riesce, forse anche dopo lo scioglimento della storica formazione Pansonic, proprio a fare una sorta di sintesi di Kilo, e qua il Kilo veramente pesa, ha un valore specifico decisamente importante, una sintesi che porta sia le techno di Mica Vaino, che suoni atmosferici, che anche momenti appunto legati a quel suono acusmatico, quindi di matrice concretista, con tanto anche di trattamenti field recording, qua addirittura c'è proprio anche una visione, potremmo dire, legata a un ambiente, uno degli ambienti tra l'altro anche più importanti in termini di immaginario, quello dell'Atlantico, qua addirittura scendiamo, Sub-Atlantic è il pezzo, il brano che andiamo a trarre proprio da Kilo, che tra l'altro veniva editato dalla Blast First, quindi storica etichetta, è proprio di quegli anni 80, soprattutto legata poi a una collaborazione assolutamente eccezionale, una delle grandi momenti degli anni fine anni 90, primi anni 0, ovvero la collaborazione tra i due Pansonic e Alan Vega, quindi due generazioni che si incontrano, si fanno esplodere veramente un suono che è a dir poco appunto bombarolo e vicino insomma a un'idea veramente antagonista anche del senso musicale, comunque dell'impatto anche esistenziale, perché Alan Vega da un po' che ci ha lasciato, quindi strade che si incontrano anche in maniera così fortuita, forse quello che era vecchio nel senso giovanissimo, piccolo Mika Vaino, che rimase folgorato dall'ascolto del primo disco di Suicide, non avrebbe mai immaginato poi di fare un disco appunto storico, tra l'altro con Alan Vega, ma tant'è, insomma, che certe cose succedono e ben venga che succedano. Per iniziare appunto questo omaggio a Mika Vaino da Kilo, questa Sub-Atlantic, quindi entriamo dentro i mondi, a questo punto sottomarini direi, sottooceanici di Mika Vaino, con un suono veramente che ricorda la potenza appunto di un oceano. Un mistetto mica vaino questa sera da queste parti, 451 frammenti sonori, una dedica appunto al grande artista finlandese, come dicevo prima, uno dei grandi snodi di faccende elettroniche, sperimentali e di attitudini ancora incompromesse, potremmo dire, virginali, se non che consapevolmente compevoli di andare a colpire spesso anche con suoni decisamente cattivi, con anche un modo di trattare faccende estreme come il noise, sia in chiave digitale che in chiave analogica, con proprio quella quasi senso analitico dello strumento e del suono, e quindi anche come poter utilizzare al meglio quel suono per appunto piegarlo poi alle proprie esigenze narrative, potremmo dire. Quelle di Mika Vaino chiaramente sono spesso narrazioni decisamente, se non legate appunto ad ambienti, comunque ambienti sempre di in questo caso di grande profondità, visto che abbiamo ascoltato Sub Atlantic, lo diciamo sub alla latina, forse è il caso, e non sub come dicevo prima, appunto con altri momenti di grande intensità, quindi quasi una sorta di enormità che va a esplorare con cui si tuffa come dire, si getta anche in una maniera piuttosto violenta Mika Vaino nelle sue sperimentazioni, sia con lavori appunto che vengono da riflessioni e analisi da ambientali, potremmo dire, quindi anche con tutta la conoscenza, seppur con anche quel senso un po' schivo che Mika Vaino ha sempre avuto, una sorta di intellettuale del fare, ecco, in questo senso più vicino a un punk che sapeva dove appunto andare a infilare le mani, come anche, visto poi che dal vivo anche proprio fisicamente aveva questa attitudine piuttosto fisica rispetto agli strumenti elettronici. Forse anche per questo molte sperimentazioni sono state proprio fatte in termini appunto di esplorazione del suono analogico, soprattutto le frequenze devastanti di tanti pezzi, tanti brani di Mika Vaino hanno qualcosa di assolutamente originale. Chiunque si sia insomma abbia tentato di più o meno approcciarsi al suono di Mika, non c'è mai riuscito, forse si è soltanto avvicinato, si è anche un po' bruciato forse rispetto a proprio una consapevolezza anche proprio nel manipolare anche proprio fisicamente, quasi fisicamente questo suono, come se appunto ci fosse anche un'eterna lotta tante volte appunto vinta da Mika rispetto alla macchina, cioè a spingere la macchina, non la classica dicotomia uomo-macchina, ma forse quella più spinta, quella forse che l'avvicina più a una sorta di futurismo, quella di spingere la macchina, di spingerla sempre più. E appunto le sue musiche vivono di questa esperienza, che potremmo dire insomma piuttosto totale, anche come una sorta di suprematismo musicale, ecco, ricordando l'altra grande figura che quasi sembra campeggiare nel suono di Mika Vaino, e quindi anche con il rimando a quell'altra scuola, se scuola si può considerare, quella di Malevich, appunto del suprematismo, e che attraversa ovviamente tanto la cultura finlandese, nord europea, che Mika ha saputo anch'essa trattare in maniera piuttosto originale, piuttosto così, con veramente schizzi di follia geniale, appunto, nel sapere inglobare quello che erano state le sperimentazioni, anche noise di certi sperimentatori misconosciuti di quelle lande, e poi tutto quello che proveniva dalla grande informazione o disinformazione, o contro forse informazione, di Tobin Gristol and Company. Ci andiamo appunto a trarre dalla Touch Record, quindi etichetta che nasce come etichetta vicino all'ambiente industrial, post-industrial, e con molti riferimenti anche a quello, appunto, che era il suono, e che è ancora, visto che piuttosto vegeta, il suono acusmatico, e in questo, appunto, lavoro del 2003, andremo un po' su e giù, insomma, in questa oretta scarsa, In the Land of the Blind, One-Eyed Eyes is King, del, appunto, 2003, della Touch. Mika si tuffa più che in altri lavori proprio nel suono acusmatico. Adesso andiamo addirittura ad ascoltare quello che può essere considerato il suono delle piante, il colore e il suono, appunto, del colore delle piante, Color of Plants, appunto, da questo altro gioiello, appunto, di Mika Vaino del 2003. Thank you. Di grande potenza il suono di Michelangelo, va da sé che appunto abbia sempre lavorato su un suono di veramente grande carattere, caratterizzato da, appunto da una forza piuttosto insomma unica, sia appunto con Pansonic che con i suoi lavori, però sempre rispetto appunto a questa forza, perché molto spesso insomma nel noise, anche nel noise che piace da queste parti, piace anche parecchio tanto, magari quella forza appunto è ottundente. Mica riesce invece in una maniera incredibile, quasi appunto magica potremmo dire, se è magia, però è magia nera senz'altro, quella del finlandese, nel senso buono, buonissimo anzi del termine, riesce appunto a far uscire da una sorta di cappello magico, ecco, appunto, questo coniglio che è appunto una musica che sia, essendo forte, non perde mai quella quasi precisione, potremmo dire, e facendo anche questa operazione che sembrerebbe appunto piuttosto fredda, invece scalda la materia in una maniera assolutamente eccezionale, in una maniera soltanto personale, soltanto sua, insomma, appunto quella di Mika Vaino, che poi tra l'altro sarà sempre posta in discussione come maniera, e quindi non si appoggerà mai appunto su un suono che poi di fatto crea, e anche per quanto riguarda una certa, in un certo qual modo, il vedere anche il suono techno che per qualche minuto vi accompagnerà adesso, è stato assolutamente un fuoriclasse, probabilmente andando molto vicino o superando anche a volte a sinistra sia i Plastic Man che i minimalisti, diciamo, prima che un termine insomma diventasse facendo così un po' anodina, ecco, di chiamiamola così, insomma, quando appunto verrà definita minimal, che poi insomma in realtà una sorta di riduzionismo appunto di quella tecno minimale che facevano negli anni 90 appunto personaggi incredibili come Plastic Man, come Jeff Mills, come Robert Hood, come certa Neil Plateau, insomma cose che spesso sono passate da queste parti, probabilmente passeranno ancora, e quindi più o meno insomma sono conosciute dentro appunto le techno degli anni appunto 90, gli anni d'oro insomma di quel suono. Beh, Mika Vaino cresce appunto alla fine degli anni 80 con quel suono tra le orecchie di ronza, e riesce a elaborare appunto una sua visione della techno anch'essa, mai perdendo quel spirito sperimentale che accompagnerà molta techno appunto creata dal grande Mika Vaino, informando poi tra l'altro quello che saranno anche le grandi espressioni poi degli anni zero di una techno che si avvicina sempre di più al noise, quindi anche forse facendo chiudere un cerchio, un sottocerchio del noise industrial dentro la techno, e viceversa, insomma, come operazione anch'essa estremamente importante fatta da Mika Vaino, oltre ad avere un valore sonoro veramente eccezionale. Thank you.

Beh, mica Vaino, bisogna veramente soltanto ringraziarlo per le musiche che ha fatto, maestro anche di techno e di una techno poi assolutamente lanciata nel futuro, probabilmente anche con quegli spazi che vengono ripresi anche nella techno più vicina al noise, proprio degli anni 10, quindi con un'idea avanzatissima di quello che un suono che appunto spingeva la macchina. Abbiamo sentito anche una specie di omaggio a Imola, quindi è una sorta appunto anche qua di innamoramento futurista per la velocità, per il rumore, per appunto la macchina lanciata. In effetti il progetto ho ascoltato per qualche secondo, era Kento Levi con l'EP storico che Imola, il pezzo appunto ascoltato Imola, prima Filus con Tetra e poi con quel simbolo, quel cerchio quello slash in mezzo che ha portato per molti anni Mika Vaino alle sperimentazioni tra tecno e ambientazioni, poi se magari con Filus, Kento Levi e altre, poi Moniker che ha inventato nel corso degli anni 90, si spingeva su appunto la macchina a tecno con appunto questa O rotta, diciamo, da questo slash o questo cerchio, questo simbolo, si è andato sempre a creare una sintesi appunto tra matrice più cattiva, techno, minimale e invece un'ambientazione che comunque è sempre stata molto, molto dialettica. Sia comunque anche, abbiamo sentito prima, anche nei lavori a nome proprio, e poi andando a trovare uno dei suoi lavori quasi in conclusione, andiamo a prendere Oleva, un po' Mika Vaino, un po' appunto il suo simbolo che va quasi a incontrare o reincontrare quegli anni Ottanta che dentro Mika Vaino sono stati poi di fatto anche vissuti con anche personaggi che all'epoca appunto fecero grandi musiche, ricordiamo uno su tutte, prima abbiamo detto la collaborazione con Alan Vega, potremmo ricordare quella con Bruce Gilbert ad esempio, IBM, con l'altro Pansonic, il Paul Weisheisen, e andando a prendere appunto quella autostrada sonora tra electro, techno e quegli spunti che andavano verso quelle sonorità industrial dance, metal dance. Beh, un pezzo come S-Bahn tratto da Oleva ci informa appunto su un ulteriore Mika Vaino. Ci andiamo appunto ad ascoltare poi una piccola perla per la fine, poi vi saluterò. Oleva con appunto S-Bahn, altro pezzo incredibile. We'll be right back. E non me la sono proprio sentita di tagliare Sban per mettervi appunto qualche minutino del pezzo che avevo previsto come chiusura appunto di questo omistetto mica vai. Lo facciamo la prossima volta, appunto, come dire, l'inizio sarà la fine, probabilmente già con un'idea appunto di pontificazione nel senso musicale, sonoro, sperimentale, appunto legato al grande compositore finlandese. Quindi vi rimando a mercoledì prossimo per un altro 451 frammenti sonori, che evidentemente inizierà con il pezzo appunto di chiusura di questa sera, che non c'è, quindi un fantasma, vi rimando quindi alla prossima, omistetto mica vai, no, senz'altro, e fate i bravi. Va bene, alla prossima, un saluto appunto da Max Macchia.